Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Non meno di un paio di generazioni si sono lasciate affascinare dalle avventure di Steve Austin e Jamie Sommers, rispettivamente l'uomo e la donna bionica. Ricostruiti, come recita la voce fuori campo della sigla, dopo aver subito un grave incidente. Ebbene, quanto siamo lontani oggi da uno scenario simile? È quello che ci chiederemo nel corso di questa seconda settimana speciale del ciclo Il Futuro e Oggi, dedicata alle più avanzate esperienze di bionica e medicina rigenerativa. E per la prima puntata non potevamo che andare a Pisa, dove proprio in questi giorni è in corso la mostra Uomo Virtuale, la fisica esplora il corpo, che ospita una sezione intitolata Diventare Bionici, dove tra le altre cose sono esposti vari prototipi di mano artificiale curata dall'Istituto di Biorobotica dell'Università della Scuola Sant'Anna di Pisa. E proprio quindi dalla mano artificiale, che è un po' il sacro graal della bionica, che vogliamo partire con l'aiuto di Cristian Cipriani, professore di bioingegneria alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, senta, mano bionica, in realtà qualcosa c'è già oggi? Sì, dunque, se oggi una persona subisce un'amputazione può ricevere tre tipi di protesi, fondamentalmente. Può ricevere una protesi puramente estetica, quindi fatta di gomma che replica l'arto sano, oppure può avere una protesi cinematica controllata dai movimenti corporei di muscoli residui, per esempio l'adduzione biscapolare delle spalle. Cioè, okay, uso degli altri muscoli presenti nel corpo per fornire la forza alla protesi. Esattamente, sulle spalle si attacca un'imbracatura e attraverso dei cavi inguainati, come i treni delle biciclette, si può trasferire il movimento delle scapole al movimento di una pinza, ok, alla fine del braccio. Il terzo tipo è la protesi mioelettrica, quella che utilizza delle mani meccatroniche, delle mani robotiche, che contengono degli attuatori, specificamente dei motori elettrici, i quali sono controllati attraverso le contrazioni dei muscoli residui. Qui elettrodi tipo quelli utilizzati per l'elettrocardiogramma decodificano la contrazione del muscolo e quindi attraverso opportuni algoritmi siamo in grado di aprire e chiudere la mano a seconda dei muscoli che si sono contratti. E quindi il soggetto impara attraverso un addestramento, no? A contrarre questi muscoli in modo da ottenere il comportamento della mano che desidera. Sì, è così che funziona. Si utilizzano i muscoli flessori ed estensori dell'avambraccio, che sono quelli naturalmente deputati all'apertura, certo, e alla chiusura della mano, per aprire e chiudere la mano da volta. Ecco, veniamo invece ai prossimi sviluppi, alla ricerca. Su quali concept si sta lavorando? Quali sono le principali linee di ricerca? Dunque, le principali linee di ricerca riguardano due tematiche fondamentali. La prima è lo sviluppo di mani robotiche ad elevata destrezza e con capacità sensoriali. La seconda è quella dell'interfaccia cervello-mano, okay? Che è la grande problematica. Come imparare, come decodificare segnali prodotti dal corpo, dall'intenzione motoria, per controllare la mano robotica. Per quanto riguarda le mani robotiche, gli ingegneri cercano di semplificare e cercano di risolvere il problema principale, che è quello della mancanza di attuatori a elevata efficienza. Cioè, ecco, uno dei problemi è proprio che, insomma, non esistono né motori elettrici né altri tipi di questi che chiamate attuatori che hanno le stesse prestazioni dei muscoli. Assolutamente no. Il modo in cui ci avviciniamo di più è proprio utilizzare dei motori elettrici, va bene, abbastanza piccoli, quali però sono diciamo un ordine di grandezza lontani rispetto a... Non hanno la potenza muscolare, no? 10 volte meno potenti dei muscoli. Quindi c'è intanto un problema così, proprio di potenza di questa mano robotica. E poi diceva, l'altro tema è quello della decodificazione dei segnali, di far parlare la mano col cervello. Esattamente, l'altro problema è capire che cosa la persona vuole fare e quindi controllare la mano di conseguenza e al contrario decodificare informazioni tattili attraverso dei sensori artificiali sulla mano per restituire un ritorno sensoriale alla persona, come avviene nella mano naturale. Quindi l'interfacciamento, quindi questo ponte tra il cervello, ossia l'uomo, e la parte artificiale è una delle problematiche più complesse oggi come oggi. E a che punto siamo arrivati, ecco, anche nella soluzione di questi problemi? Perché voi in laboratorio siete avanti, insomma, rispetto a quello che c'è già in commercio, viene già utilizzato. Sì, in laboratorio è già stato dimostrato che è possibile controllare più gradi di libertà, più movimenti in simultanea in maniera proporzionale, ed è stato anche dimostrato che è possibile restituire un feedback sensoriale rispetto a caratteristiche, per esempio, di forza. Anche addirittura di rugosità. Esattamente, ci sono degli studi condotti proprio qui alla Scuola Sant'Anna che dimostrano che è possibile restituire un'informazione della rugosità della superficie che si tocca. Il passaggio adesso è quello di trasferire tutta questa conoscenza, nuova conoscenza, in ambito clinico. Ma quindi quella prospettiva un po' fantascientifica che fino a 20, 30, 40 anni fa di riuscire a fare una mano che è sostanzialmente indistinguibile dall'originale o perlomeno ha le stesse funzioni, non è fantascienza, ci si può arrivare? No, non è fantascienza, ci si può arrivare e ci si arriverà. Magari non replicheremo il 100% delle funzionalità motorie e sensoriali, ma un 90%, ecco, questo non ho dubbi. Va bene, grazie al professor Christian Cipriani, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani sera per la seconda puntata dello speciale dedicato alla bionica. Da Maurizio Melis, buona serata a voi tutti.